English Bit di Giulia Crivelli. Fair. Does China play fair? La Cina gioca pulito? L'Economist ha intitolato così una delle sue ultime copertine, illustrata da un panda gigante con un mazzo di carte in mano, sulle quali spiccavano nomi di colossi cinesi come Alibaba. Da un ciuffo del braccio, una sorta di manica pelosa, spuntano però altre carte. Il riferimento è ovviamente ai legittimi dubbi sulla trasparenza e rispetto delle regole che la Cina dimostra come player economico e finanziario globale. La parola che ci interessa è fair. La traduzione più immediata è onesto, giusto, corretto. Si può parlare di fair deal, accordo, fair wage, salario, fair price, fair question, fair trial, processo, solo per fare alcuni esempi. Was it fair to ask him to do all the work? È stato giusto chiedergli di fare tutto il lavoro? To be fair può essere tradotto con a dire il vero. To be fair, she behaved much better than we expected. A essere onesti, si è comportata molto meglio di quanto ci aspettassimo. Ma ci sono anche sfumature diverse di fair, che può servire per indicare qualcosa di grande o di buono. A fair number of people came along. Un buon numero di persone si presentarono. We've still got a fair bit to do. Abbiamo ancora molto da fare. I have a fair idea of what happened to that marriage. Ho un'idea abbastanza chiara di quanto è successo a quel matrimonio. Poi ci sono le espressioni gergali. All is fair in love and war. Tutto è lecito in amore e in guerra. By fair means or foul. Con mezzi leciti o illeciti. Fair enough, per indicare qualcosa che sembra accettabile o ragionevole. We'll split the expenses in two equal parts. Ok, fair enough. Divideremo le spese a metà. Ok, mi sembra giusto. Fair and square vuol dire secondo le regole o in modo diretto. The party won the election fair and square. Il partito vinse le elezioni in modo trasparente. I told him fair and square to pack his bags. Gli ho detto chiaro e tondo di fare le valigie. Curiosamente, gli inglesi usano l'immagine del quadrato, square, dove noi usiamo quella del cerchio. Come sostantivo, fair significa fiera. The most important antique fair in London, la più importante mostra di antiquariato di Londra. The Frankfurt Book Fair attracts people from all over the world. Arrivano da tutto il mondo per la fiera del libro di Frankfurt.